Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Sono rare le persone che riescono a vivere la vita come andrebbe vissuta, e cioè poeticamente, con intensità, amore, gioia, leggerezza, senza negarsi nulla, senza negare nulla del mondo. Oggi Destini Incrociati vi porta in Brasile, un paese dove la poesia vive in ogni gesto quotidiano, sia esso fatto di povertà che di felicità e amore. È in Brasile che andiamo a conoscere i nostri protagonisti di oggi, tra musica, carnevale e passione. È il 1954, San Paolo. In teatro debutta l'opera teatrale Orfeo de Conceição. È un'opera di grande successo, forse perché l'antico mito di Orfeo ed Euridice viene trasposto nella vita di tutti i giorni di due giovani e umili ragazzi brasiliani e si ritrova a mescolarsi con i balli e le musiche del samba del carnevale. Ai brasiliani piace quest'opera teatrale, si riconoscono nei suoi protagonisti, gente del popolo che soffre e ama. Vediamo nella trama. Alla vigilia del carnevale, il giovane tranviere Orfeo, famoso perché suona così bene che si dice possa far sorgere il sole, si innamora della graziosa Euridice appena arrivata dalla provincia. Ma durante il carnevale, un uomo misterioso insegue la ragazza, che terrorizzata si rifugia nel deposito dei tram. Inavvertitamente Orfeo, accendendo le luci, innesta l'alta tensione. E così Euridice muore folgorata. Il successo a teatro è senza precedenti. L'opera stimola tutto il mondo artistico, compreso quello del cinema. Marcel Camus, regista cinematografico famoso per aver girato La donna di Saigon, nel 1957 decide di portare l'Orfeo sul grande schermo. È per questo che contatta l'autore, un poeta che da mesi gode di uno straordinario successo per la rappresentazione teatrale. Camus è convinto che il film farà conoscere quell'opera in tutto il mondo e ha bisogno di tutta la collaborazione del suo autore per poter portare a compimento il suo progetto. Prima di svelarvi il suo nome, vogliamo farvi sentire come parla di lui un altro poeta suo grande amico, Giuseppe Ungaretti. La lontananza, l'assenza, una malinconia, crollo e inabissarsi, eppure è rimasta a galla quasi lieve nebbia, velatura appena distinguibile. Tale è, nonostante attorno imperversi solleone, la fonte di ispirazione della poesia di Vinicius. E una sensualità che lo svincola da tutto, da se stesso, che l'immedesima amando nell'altra persona. L'amico Vinicius di cui parla Giuseppe Ungaretti è anche diplomatico, cantante, seduttore e bon vivant. Il suo nome è Marcus Vinicius da Cruz de Mello Moraes, ma probabilmente tutti lo conosciamo meglio come Vinicius de Moraes. Vinicius de Moraes. Quando Giuseppe Ungaretti conosce Vinicius de Moraes è il 1937. Ungaretti si trova in Brasile per insegnare italiano e comuni amici gli presentano quest'uomo affascinante. Figlio di una famiglia facoltosa di Rio de Janeiro, de Moraes, che all'epoca ha 24 anni, scrive già poesie e qualche canzone. È lui il primo protagonista di Destini Incrociati di quest'oggi. Andiamo a scoprire chi è. Vinicius nasce nel 1913 a Rio de Janeiro, durante un forte temporale. Eppure difficilmente si può trovare un'indole, uno spirito meno grigio del suo, così fermamente portato alla gioia e al godimento. La famiglia è ricca, colta. L'atmosfera in casa è allegra. In casa tutti suonano il pianoforte, si canta e si gusta la vita. Vinicius è un bravo scolaro e un grande seduttore. A scuola si innamora già di tutte le bambine. È un ragazzino precoce, intelligente e poetico. Scrive e scrive raccolte di poesie, piccole antologie. In questo periodo si sente un piccolo genio ed effettivamente non è da tutti riuscire a pubblicare libri di poesia in così tenera età. Se da giovane Vinicius pecca forse un po' di presunzione, è pur vero che la poesia è dentro di lui e intorno a tutto ciò che lo circonda. Come la città si arrampica lungo le colline che delimitano il suo territorio, così le melodie del samba sembrano scalare ogni vita carioca, anche le più drammatiche, e in qualche modo riuscire a illuminarle. Del resto, la città invita alla gioia. Rio è in una posizione geografica veramente privilegiata, una baia profonda, con spiagge meravigliose che si srotolano ai suoi piedi e il pan di zucchero che sorveglia una popolazione vivace e generosa, soprattutto in quegli anni, all'inizio del secolo, in cui tutto appare possibile. Fino al 1926, infatti, il Brasile gode di un certo benessere economico, grazie soprattutto alla produzione e all'esportazione del caffè. Ovunque intorno a San Paolo e in altre zone del paese si estendono immense piantagioni che trasformano il paesaggio, rendendolo una specie di immenso pungitopo tropicale. In quegli anni è il samba la voce del Brasile, una danza originaria dell'Africa, dall'Angola per la precisione, che con l'arrivo degli schiavi a Salvador de Bahia si è diffusa in tutto il Brasile. Nei primi decenni del 1900 sono i grandi compositori Pixinguinha e i fratelli Tapajós o Orlando Silva che con le loro serenate, le loro cansao, fanno sognare e ballare i brasiliani. Una delle cansao più famose dell'epoca è Carinhoso di Pixinguinha. Vinicius, grazie al padre, si avvicina a questo genere di musica popolare e a 14 anni scrive già delle serenate per i fratelli Tapajós. Fra i miei primi ricordi, quello che mi ha influenzato dalla nascita era la musica popolare. Mio padre mi portava nei bar più umili ed era lì che l'ascoltavo. E poi c'era una tradizione di lirismo di Mondo Bohemien che mi veniva dal lato paterno. Su questo doppio registro, lirismo e musica popolare, ho iniziato a scrivere le serenate per i fratelli Tapajós, come Loura o Morena e Cansao de Noigi. E così ho guadagnato i miei primi soldi, che per quel tempo erano molti. Quasi non ci credevo. I genitori forse non sono felici di un figlio che scrive canzonette a 14 anni, ma Vinicius li ripaga studiando e in seguito iscrivendosi all'università dove frequenta giurisprudenza. Ma è nei caffè di Rio de Janeiro che Vinicius de Moraes porta avanti la sua vera formazione spirituale e culturale, incontrandosi con una vivacissima compagine di scrittori e intellettuali del tempo. Il ragazzo studia e intanto scrive poesie. Una poesia che esprime passione, allegria, anche se talvolta ancora è imbrigliata da preoccupazioni stilistiche e formali che paiono ingabbiarlo. Nel 1938 de Moraes parte per l'Inghilterra dopo aver vinto una borsa di studio. In Inghilterra si dà da fare, non solo nello studio, ma anche inventandosi mille interessi, tanto da finire persino a fare l'assistente per una trasmissione brasiliana sulla BBC. Ecco, questo è un tratto caratteristico di de Moraes. Dietro la sua apparente leggerezza, dietro l'edonismo e la ricerca del piacere, in realtà tutta la sua vita è caratterizzata da una passione per il lavoro, una curiosità per qualsiasi attività che gli permetterà non solo di venire a contatto con persone di tutti i generi, ma soprattutto di diventare una sorta di polo magnetico di energie che insieme a lui daranno vita a un nuovo mondo musicale e soprattutto culturale. Quando Vinicius torna nel suo paese dall'Inghilterra a causa dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, sono mille le attività in cui si lancia. Scrive recensioni cinematografiche, dirige il supplemento letterario di un giornale, pubblica altre raccolte di poesia, si unisce al corpo diplomatico brasiliano, compie viaggi nel nord-est del Brasile e soprattutto si sposa. Il suo primo matrimonio risale al 1940. Quando ancora si trova in Inghilterra, de Moraes si sposa per procura con la prima delle sue 9 mogli, con Beatriz Azevedo de Meio, da cui ha 2 figli, Susanna e Pedro. Avete sentito bene, 9 mogli. Il rapporto che Vinicius ha con le donne è incredibile, fatto di devozione assoluta verso la femminilità e al tempo stesso un'attitudine dissipatrice che non si ferma davanti a niente. Per lui l'unico amore concepibile è l'amore passione. Solo questo tipo di amore per lui ha le dimensioni dell'infinito. Quando durante un'intervista la scrittrice brasiliana Clarice Lispector gli chiede come conclude i suoi matrimoni, Vinicius risponde: «Nella mia vita è stato come se una donna mi depositasse fra le braccia dell'altra. È capitato forse perché questo amore e passione, a causa della sua stessa intensità, non ha possibilità alcuna di sopravvivere. Nonostante 9 matrimoni, molte delle sue ex mogli hanno dichiarato che quello che Vinicius ha dato loro è stato soprattutto l'apprezzare la vita. Forse perché Vinicius ha sempre confessato che per lui la donna è la cosa più importante del mondo. Colei a cui si vuole donare interamente, che vuole amare per tutto quello che lei riesce ad esprimere. Come canta nella canzone Samba de Benção, il samba delle benedizioni. Una donna deve avere qualcosa in più della bellezza. Qualche cosa che piange, qualche cosa che ha malinconia, un'aria di amore tribolato, una bellezza che viene dalla tristezza di sapersi donna fatta per amore, per soffrire d'amore e per essere solo perdono. Nel 1946 De Moraes viene invitato dal suo governo a intraprendere la carriera diplomatica. Lui è già una personalità importante nella cultura. Il primo incarico è a Los Angeles, poi Parigi e Montevideo. De Moraes fa parte dell'intelligenza brasiliana, di un mondo accademico che in qualche modo però ne soffoca lo spirito. Anche i titoli delle sue raccolte di poesia sono altisonanti. Quella del poeta è una maschera, imposta da una borghesia che guarda ancora all'Europa, vuole scimmiottare la Francia. E De Moraes ha assorbito molto della cultura parigina. A Parigi, in quegli anni, si respira un'aria bohemienne che lo rinfranca, soprattutto nel mondo del cinema, con la nascita del movimento della Nouvelle Vague. Nel 1954 un giovane critico, un François Truffaut appena 22enne, scrive sulle pagine della famosa rivista di cinema Cahiers du Cinéma un articolo intitolato «Su una certa tendenza del cinema francese», nel quale va contro il cinema di papà, come lo chiama, e cioè il cinema tradizionale francese, a favore di un cinema che sia espressione più individuale del regista. I miti per questi giovani diventano i grandi registi americani come Howard Hawks, Nicholas Ray, John Ford, Orson Welles e Alfred Hitchcock. Coloro che iniziarono come giovani critici a scrivere sulle pagine dei Cahiers diventano in breve tempo i registi più importanti della Francia alla fine degli anni 50 e l'inizio dei 60. Sono Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer, Jean Rivette, Claude Chabrol, con film come I 400 colpi, Le Beau Serge, Hiroshima Mon Amour e Fino all'ultimo respiro. Squagliati, sta arrivando la polizia. Ma ti ho portato i soldi. Scappa, la mia americanina mi ha denunciato. Diavolo, su, vieni, presto. No, io resto, tu filati. Non fare il fesso, Michel. No, rimango. Sì, sono stufo. Sono stanco. Ho voglia di dormire. Sei pazzo, monta. No, tanto riuscirò a salvare la testa. Quello che mi secca è che non dovrei pensare a lei e non ci riesco. Vinicius De Moraes è un appassionato cinefilo. È diventato amico di Orson Welles. Nel 47 fonda persino una rivista di cinema, Film. Fra le sue varie missioni in Europa ce n'è stata anche una per studiare i vari festival del cinema come Cannes, Berlino, Locarno e Venezia. Non è quindi un caso che Marcel Camus lo contatti nel 1954 per trasporre in pellicola il suo Orfeo. Vinicius è soddisfatto, discute con Camus delle problematiche dell'adattamento. Non può immaginare che quelle discussioni lo porteranno a conoscere colui che trasformerà la sua visione dell'arte e cambierà la percezione che tutto il mondo ha del Brasile. Un paese che non può essere definito senza la sua musica. È infatti sulla colonna sonora che si incentrano tutte le discussioni tra Vinicius e il regista. La produzione francese richiede anche di creare una nuova serie di arrangiamenti per le canzoni scritte dal poeta. Le musiche preparate per il teatro ci sono già, ma bisogna rilavorarci, trovare una chiave ancora più moderna per interpretarle. Vinicius De Moraes non è molto contento di dover mettere mano alle musiche. Si ricorda di quanta fatica ha già fatto a metterle insieme a causa del pessimo umore del musicista che le ha composte. Un personaggio dal carattere tutt'altro che facile. Al solo pensiero di richiamarlo per chiedergli di rivedere gli spartiti, Vinicius va in ansia. Per capire il perché, riviviamo insieme il primo incontro tra Vinicius De Moraes e quel giovane musicista. Un incontro che avviene pochi mesi prima del debutto teatrale dell'Orfeo in un bar di Rio. L'appuntamento è combinato dal giornalista e impresario teatrale Ronaldo Boscoli, fratello della seconda moglie di Vinicius, che arriva accompagnato a un altro giornalista, Lucio Rangel. Vinicius siede al tavolo, l'immancabile bicchiere di whisky davanti. È un uomo di 43 anni, conosciuto e stimato da tutto il Brasile, con poesie pubblicate in molti paesi all'estero. Il giovane che gli siede davanti ha un'aria un po' sbruffona, un lungo ciuffo di capelli neri che gli pende sulla fronte e la camicia sbottonata sul petto. Anche il suo nome, Tom, pare quello di un teddy boy americano. Dopo che De Moraes gli spiega tutta la storia, la pièce teatrale e la necessità di creare le musiche per i suoi testi, per tutta risposta il giovane chiede se c'è da guadagnarci qualche soldo. La domanda fa infuriare il giornalista Rangel, che reagisce rimproverando il giovane. Ma come? Parlare di soldi di fronte a una simile proposta del massimo poeta brasiliano? Ma il ragazzo non si scompone. Il giovane Tom all'epoca non ha ancora 30 anni, ma ha già un passato da arrangiatore inferiore solo al grande Pixinguinha, tanto che gli è valso un contratto con una grande etichetta discografica e la collaborazione con molti artisti dell'epoca. Nonostante le sue capacità, il musicista è sempre a corto di denaro per provvedere alla moglie, al figlio e a una nuova bambina in arrivo. Forse è l'idea di questa nuova nascita che gli dà il coraggio di parlare di soldi davanti a De Moraes. Eppure l'apparente impertinenza del giovane compositore non dispiace a Vinicius e il progetto parte. Nasce finalmente lo spettacolo dell'Orfeo. Vinicius chiama Tom al telefono. Deve chiedergli nuovi arrangiamenti per il film. Tom si nega quasi sempre e quando risponde lo fa annoiato. Vinicius, che si trova a Montevideo, è costretto a far buon viso a cattivo gioco. Non ha scelta e accetta condizioni assurde. È così che quello scorbutico del suo musicista gli compone una nuova canzone al telefono. De Moraes è perplesso. Chissà quale sarà il risultato. A gente trabalha o ano inteiro por momento di sonho pra fazer a fantasia. Eccolo il risultato. Una canzone senza tempo che riscrive lo stile della musica brasiliana. A Felicidade. Intanto il film Orfeo Negro, con la regia di Marcel Camus, vede la luce e vince la Palma d'Oro al Festival di Cannes e nel 1960 l'Oscar per il miglior film straniero. Ma soprattutto vince il favore del pubblico, che si ritrova improvvisamente avvolto in un nuovo magico tessuto musicale. Per De Moraes è la consacrazione e il paese è pronto a tributargli tutti gli onori. Eppure per lui molto è cambiato negli ultimi anni. Il mondo accademico non gli interessa più e Orfeo Negro ne è la prova. Il mondo, quello vero, è quello della gente umile che si riversa per le strade ed è quello che ora lo commuove profondamente. Un mondo in cui, come recitano i testi di A Felicidade, la felicità del povero somiglia alla grande illusione del carnevale. Lavoro un anno intero per un momento di sogno. Vinicius si riavvicina alla tradizione popolare che ha conosciuto da bambino. Si mescola alla gente, si apre agli incontri, alle contaminazioni. Le sue giornate sono trascorse al bar, chiacchierando, aprendosi al nuovo. Con lui ci sono gli amici di sempre, ma anche persone nuove, cantanti e musicisti. Primo fra tutti, il giovane compositore che ha contribuito a rendere un successo le canzoni per Orfeo Negro. Con lui è nato un sodalizio forte, che li porta a ridefinire gli schemi della musica latina. E in questo modo a ritagliarsi un posto importantissimo nella storia del loro paese. È un periodo in cui fra una moglie e l'altra il solito impenitente Vinicius ha una relazione con la cantante Lisette Cardoso. Quando la casa discografica Festa, specializzata in dischi di poesia, propone al poeta di realizzarne uno, Vinicius coglie l'occasione al volo per fare un bel regalo alla sua ultima amante. Il disco Cansao do Amor de Mais esce nel 1958. Le canzoni cantate da Elisette sono tutto sommato dei samba cansao abbastanza comuni, ma due pezzi spiccano su tutti gli altri. Per entrambi la musica è composta sempre da quel giovane autore che abbiamo già incontrato in occasione di Orfeo Negro. E soprattutto il brano Chega de Saudade, che sbalordisce il pubblico. È nato un nuovo genere musicale grazie all'incontro tra la poesia di De Moraes e quel giovane musicista. Chi è? Lo scopriremo tra poco. Vai mia tristeza, diz a ela che sem ela non pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que... estrela, não há paz, não há beleza, é só... Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati, la storia del poeta Vinicius de Moraes si incontra con le incredibili capacità musicali di un giovane compositore che riesce a dare forma e visione alle bellissime parole del poeta. Insieme, i due uomini creano un nuovo genere musicale che conquisterà il mondo. Ma le novità in Brasile non sono solo musicali. Alla fine degli anni 50, il paese vive un'epoca di libertà e di democrazia insperate. La presidenza del socialdemocratico Juscelino Kubitschek sostiene una massiccia industrializzazione, soprattutto automobilistica, che porta l'economia a crescere in breve tempo. Nel 58 il Brasile vince anche i mondiali di calcio in Svezia. Tutto sembra voler rinnovare l'orgoglio di un popolo che per celebrare questo momento si impegna persino nella costruzione di una nuova capitale, Brasilia. Brasilia è una visione, un delirio urbanistico e architettonico che trova i suoi artefici in due uomini, il presidente Kubitschek e l'architetto Oscar Niemeyer, la mente e il braccio di una capitale sorta nel nulla, al centro del Brasile. Ma è un delirio che fa bene ai brasiliani, che rinnova la speranza di un futuro migliore, rispecchiandosi in una capitale che ha tutte le intenzioni, sin dal progetto iniziale, di coniugare etica ed estetica, un'idea della giustizia e del vivere in modo più umano, con l'esigenza del bello allargato a tutti. O presidente Kubitschek che fez Pampulha, fez depois Brasília. Il presidente Kubitschek, che aveva già fatto la città di Pampulha, fece Brasilia. Venne nel mio ufficio e mi disse: Oscar, abbiamo costruito Pampulha, ora costruiamo la nuova capitale. L'avventura di Brasilia iniziò così. Correvamo contro il tempo, la città era lontana da tutto. Io ero soprattutto teso a fare un genere diverso di architettura. Mi rendevo conto che il tempo era poco, ma questo non mi indusse a semplificare il progetto. È il grande architetto brasiliano Oscar Niemeyer che ci racconta in un'intervista rilasciata quando aveva già 101 anni come nacque il progetto della città di Brasilia. Un progetto utopistico che, partendo dagli insegnamenti di Le Corbusier, cerca di costruire la città ideale dove zone residenziali, bancarie e commerciali sono ben distinte e lontane e dove per ogni edificio si cerca di avere come riferimento l'arte. Perché la mia preoccupazione, desde il primo progetto. Il mio primo pensiero, fin dal primo progetto, era quello di riuscire a integrare le arti. Credo che l'architettura e l'arte in generale debbano andare di pari passo. I monumenti del Rinascimento non sarebbero così importanti senza i dipinti che si trovano al loro interno. Brasilia viene costruita in 41 mesi, dal 1956 al 1960, con il lavoro di 60.000 operai. La sua forma ricorda quella di un aeroplano ed è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. A lei Vinicius de Moraes dedicò alcuni versi. Ah, le grandi strutture, tanto lievi, tanto pure, come se fossero immensi massi depositati dagli angeli. È in questa atmosfera di grande rinnovamento che Vinicius lavora insieme al secondo protagonista della puntata di Destini Incrociati di oggi. È un compositore geniale, irriverente e assolutamente innovativo. Il suo nome è Antonio Carlos Jobim. Per gli amici, Tom. Tom Jobim. Antonio Carlos Jobim ha reso la musica brasiliana facile, immediata, semplice e geniale. Una capacità, quella di semplificare, di eliminare i fronzoli, che comincia dal suo soprannome, Tom, che gli viene dato dalla madre quando si accorge che la sorella piccola di Antonio Carlos non riesce a pronunciare correttamente il lungo nome del fratello. Ispirandosi a una canzone francese, la mamma sceglie il facile Tom come soprannome per il primogenito. I suoi genitori sono solidi borghesi. Il padre Jorge è molto religioso, quasi al limite della rigidità. La madre è una professoressa che alla morte del marito si risposa 2 anni dopo con un socialista dall'indole completamente diversa da Jorge Jobim, a partire dall'atteggiamento verso la religione. Il nuovo padre adottivo di Tom, infatti, è agnostico. È in questa atmosfera libertaria che il ragazzo cresce e viene avviato verso la musica. Durante l'adolescenza ci sono degli avvenimenti che possono cambiare l'indirizzo che un giovane imprime alla sua vita. Cosa succede se, entrando nel garage di casa propria, il ragazzo in questione non trova solo un pallone da calciare o una bicicletta, ma un pianoforte? Per Tom è una scoperta straordinaria. Il primo approccio verso lo strumento è un misto fra un'altezzosa indifferenza e un timore reverenziale. È da allora che la musica diventa la sua vita. Quando si sposa a soli 22 anni, la necessità di provvedere alla famiglia lo spinge a cercare ingaggi ovunque. Nightclub, bar, balere. Il suo primo compagno e amico in questo mondo è un musicista della sua stessa età, Newton Mendoza, con cui scrive molte canzoni, la più famosa delle quali è Desafinado. Se fosse di sé. Ma è l'incontro con Vinicius che cambia il modo di fare musica di Tom. La raffinatezza dei testi del poeta ispirano Jobim, che sente il bisogno di aggiungere al tradizionale assetto musicale del samba un gioco di armonie più complesso, ma che paradossalmente dà come risultato finale una sensazione di minimalismo e di pulizia impensabile prima. Il risultato di questa operazione musicale è un nuovo genere che viene chiamato Bossa Nova. Bossa Nova vuol dire letteralmente voce nuova, o meglio nel gergo brasiliano, nuovo pallino, nuova fissa. E il nuovo pallino è soprattutto il tentativo di raggiungere l'assoluta fluidità dei suoni, il suonare cose difficilissime come se fossero estremamente semplici. C'è alle spalle della Bossa Nova una ricerca quasi ossessiva della sobrietà, alleggerita dalla capacità di abbandonarsi al lirismo, alla poesia, che raramente si è vista nella musica. Semplicità e complessità. Ecco i segreti della Bossa Nova. Quando esce la canzone Chega de Saudade, l'effetto, come abbiamo già detto, è dirompente, come ricorda il musicista Edu Lobo. Ero a Recife quando ho sentito per la prima volta Chega de Saudade. Ero totalmente paralizzato. Era una cosa completamente originale, così nuova. Tutto era nuovo. Le parole, la musica, il modo di cantare. Non avevo mai sentito nessuno cantare prima così. Anche la chitarra suonava in modo diverso. Fino ad allora non si era mai fatta una musica così. Improvvisamente, il samba, il canto popolare del Brasile, viene reso più sofisticato dagli apporti del jazz americano che Jobim conosce così bene dopo gli anni trascorsi a suonare nei locali di Rio. Ed è forse questa maggiore raffinatezza che piace ai giovani, come ricorda il grande Chico Buarque de Holanda. I testi delle canzoni parlavano sempre di amore. Con Chega de Saudade le cose cambiarono. E allora dissi a mio padre, dammi i soldi che vado a comprare il disco. È proprio quando Vinicius scopre la strada, l'umanità marginale che incontra nelle bettole, che allora si innamora della sua identità brasiliana, che rinasce egli stesso. Ce lo confermano le parole del musicista Caetano Veloso. La Bossa Nova è un momento cruciale nella storia brasiliana, importante soprattutto perché torna ad attingere nelle parole e nella musica della tradizione brasiliana, che lui conosceva bene e che amava profondamente. Il grande segreto alle spalle della collaborazione fra Vinicius de Moraes e Tom Jobim è forse proprio la loro capacità di funzionare come vasi comunicanti. Da una parte, il poeta intellettuale che contamina il musicista avvezzo alla strada, che acquista una raffinatezza compositiva mai raggiunta prima d'ora. Ma a sua volta, lo stesso poeta viene contaminato dalla forza popolare delle composizioni del musicista, acquistando maggiore impatto e capacità di arrivare al cuore della gente. La forza della Bossa Nova è anche la sua capacità di esprimere una città, Rio, con le sue luci, i suoi colori e i suoi luoghi. Improvvisamente nomi come Copacabana, Ipanema, Corcovado entrano nel glossario musicale di tutto il mondo, dagli americani ai francesi agli italiani. Sono Tom Jobim e Vinicius de Moraes a compiere questo miracolo. I jazzisti americani si innamorano di loro e della loro musica, e ovunque le canzoni del duo vengono suonate, cantate e riarrangiate. In questa rivoluzione musicale, Jobim e de Moraes vengono affiancati dal chitarrista e cantante João Gilberto, che con la sua voce suadente e monocorde imprime uno stile al modo di cantare la bossa nova che la spoglia ancora di più da qualsiasi enfasi. A lui si deve uno dei dischi più belli e più venduti al mondo, creato in collaborazione con un famoso jazzista americano, il sassofonista Stan Getz. Le canzoni sono quasi tutte di Vinicius e di Tom Jobim, che partecipa alla realizzazione del disco. Ed è una creazione tutta sua, una delle canzoni più suadenti dell'album, Vivo Sognando. Vivo sognando, sognando mil horas sem fim. tempo em que vou perguntando se gostas de mim. Tempo de falar em estrelas, falar de um mar, de um céu assim. Falar do bem que se tem, mas você não vem, não vem. Você não vindo, não vindo, a vida tem fim. Destini incrociati. Si sono conosciuti in un bar nel 1954. Si ritrovano come vecchi amici dopo circa 8 anni, nell'estate del 62 a Rio. Sono Vinicius de Moraes e Tom Jobim. E dalle loro bevute e chiacchierate sta per nascere un capolavoro. Eloisa Eneida Menezes Paes Pinto ha poco più di 16 anni e tutti i giorni cammina sulla spiaggia di Ipanema, Rio de Janeiro. Talvolta si ferma al bar Veloso a comprare le sigarette per la mamma. Usualmente indossa una semplice camiciola sul costume e ai piedi ha dei sandali infradito. È una bella ragazza alta, bruna, con gli occhi azzurri. Ma ciò che più colpisce in lei è la grazia con cui si muove, la leggerezza del suo passo, l'abbronzatura dorata e il sorriso sereno. Lei non sa che con le sue passeggiate entrerà nel mito. Tom e Vinicius sono seduti al tavolo del Veloso. Notano la giovane ragazza. Nelle loro menti l'immagine di Eloisa Pinto muta giorno dopo giorno fino a trasformarsi in una canzone. La canzone più famosa del mondo. Garota de Ipanema. La ragazza de Ipanema. Guarda che cosa bellissima, piena di grazia, è quella ragazza che viene e che passa ondeggiando dolcemente sulla strada per il mare. E quando qualche anno dopo Vinicius rivela la vera identità della ragazza che ispirò lui e Jobim, la descrive così. Lei fu ed è per noi l'esempio di un bocciolo carioca. Una ragazza con l'abbronzatura dorata, un misto di un fiore e di una sirena, piena di splendore e di grazia, ma con lo sguardo anche triste, che si porta con sé sulla strada verso il mare. Il sentimento della giovinezza che passa, della bellezza che non è solo nostra. Dono della vita nel suo incessante, meraviglioso e melanconico fluire e rifluire. Il pezzo diventa il cavallo di battaglia di Vinicius e Jobim e nel 1965 vince un Grammy Award. Nel 1999 entra nella Grammy Hall of Fame. La ragazza di Ipanema viene cantata praticamente da tutti i migliori cantanti del mondo. Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Peggy Lee, Mel Tormé, Diana Krall. In Italia Bruno Martino e Caterina Valente furono i primi a inciderne la versione italiana. Fra tutti questi spicca anche uno degli interpreti più importanti di allora. Nell'estate del 66 Jobim è ancora al bar Veloso di Ipanema quando riceve una telefonata. È di nuovo la fortuna che bussa alle porte. Dall'altra parte del telefono c'è The Voice, Frank Sinatra. Il più famoso cantante del mondo chiede a Tom di fare un disco insieme. Francis Albert Sinatra e Antonio Carlos Jobim viene pubblicato nel 1967 e The Girl from Ipanema, cantata in inglese da Sinatra e in portoghese da Jobim, diventa un cult. Yes, I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see. Il disco viene registrato a Los Angeles, ma quando Tom vi arriva, Sinatra è alle Barbados per sfuggire alla moglie di allora, Mia Farrow, con cui ha litigato. Nel suo albergo Jobim si annoia e scrive continuamente a Vinicius firmandosi Astenio Claustrofobim. Ma quando finalmente The Voice arriva in sala di registrazione, la frustrazione di Jobim si dissolve. Sinatra è amabile, simpatico e riesce a instaurare immediatamente un ottimo rapporto con Tom. Il risultato è un album apprezzato dalla critica e dal pubblico. Tom Jobim diventa uno dei compositori più richiesti in Brasile. Scrive per tanti artisti, fra cui Chico Buarque de Holanda e soprattutto Elis Regina, per la quale scrive il pezzo Acqua di Marzo, forse uno dei più belli mai creati. Anche Vinicius lavora molto all'estero. ha da poco scoperto un nuovo chitarrista, un giovane di San Paolo ma di origini italiane, anzi molisane, che si chiama Antonio Pecci Figlio, in arte Tocchigno. Tocchigno e io siamo amici da tanto tempo. L'ho conosciuto grazie a Chico Buarque, ma abitavamo in due città diverse e lui era molto più giovane di me. Ma dopo un viaggio in Argentina, al mio ritorno abbiamo deciso di formare un gruppo con il quale suonare vera musica brasiliana e il risultato ha dato buoni frutti. I due conoscono un'incredibile notorietà in Italia, dove nel 1969 incidono un disco con Sergio Endrigo e al quale partecipa anche il vecchio amico di Vinicius, il poeta Giuseppe Ungaretti, che legge poesie di De Moraes tradotte da lui stesso. Il disco si chiama La vita, amico, è l'arte dell'incontro. Una delle canzoni più famose è proprio Samba de Bensao, la samba delle benedizioni. Alcune strofe sono dedicate a Ungaretti. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Benedizione, Ungaretti, che quando ti penso mi illumino d'immenso. Tu che sei immenso, tu che sei denso, tu che sei intenso. Benedizione, Ungaretti, mio paparino e fratello. Benedizione, Ungaretti, che sto partendo e devo dirti addio. L'arte dell'incontro non è un titolo casuale. Tutta la vita di Vinicius ne è costellata. Nella sua casa la porta rimane sempre aperta, l'accoglienza è spontanea e generosa. Avido di vita, De Moraes consuma tutto con la stessa foga con la quale si dona completamente. Quest'album riassume la filosofia di Vinicius, che raccoglie intorno a sé un cantante malinconico e raffinato come Sergio Endrigo, un poeta come Ungaretti, innamorato del Brasile e della saudade delle poesie di De Moraes, tanto da assumersi l'incarico di tradurle, e la perizia musicale di un giovane come Tocchigno, che accompagna e sostiene la voce non sempre perfetta del cantante poeta. Ascoltare questo disco è un esercizio dell'anima che fa bene a tutti, perché si praticano molte qualità: la calma, la malinconia, la percezione di emozioni pure, l'armonia. Nel 77 esce La voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria, inciso con Ornella Vanoni. Ma come fai quando tu sei bambino a prendere coraggio e fede nel destino? Se papà ti mette per castigo al buio, poi di notte a letto, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo. In questo disco l'atmosfera è diversa. Di tutte le parole comprese nel titolo, l'allegria è forse quella più presente nell'album, che percorre tutte le canzoni dandogli una vitalità eccezionale. Tocchigno dirà che Ornella Vanoni ha saputo interpretare la musica di Vinicius con una grazia inarrivabile. Vinicius e Tom Jobim si rincontrano in un ultimo grande concerto in onore di Vinicius che si tiene a Rio nel 1978. Al concerto partecipano, oltre a Jobim, anche Miuccia, la sorella di Chico Buarque, e il fido Tocchigno. Lo spettacolo, inizialmente programmato per 4 settimane, va avanti per 8 mesi. È l'ultimo concerto. Nel 1980 Vinicius muore a 66 anni, lasciando un vuoto incolmabile. Da quel momento Tom Jobim dedica il suo tempo alla celebrazione dell'opera di Vinicius e alla diffusione della musica brasiliana, con concerti in tutto il mondo. 10 anni dopo la morte di De Moraes, diventa rettore dell'Università della Musica di San Paolo. Muore nel 1994, all'ospedale Mount Sinai di New York, per un tumore al pancreas. La bossa nova di Vinicius De Moraes e di Tom Jobim è un suono venuto dal cuore che ha cambiato la musica del mondo e nella quale la gente è riuscita a identificarsi, perché parla di amore e di allegria, conditi da una malinconia che è propria dell'animo umano, che ne segna i confini e dà senso alla gioia che si prova, come recitano i versi di Vinicius. È meglio essere allegro che essere triste. Allegria è la miglior cosa che esiste. È così come un sole dentro il cuore, se vuoi dare a un samba la bellezza. È meglio essere allegri che essere tristi. Allegria è la miglior cosa che esiste. È così come la luce no coração. Mas para fazer samba com beleza é preciso bocado de tristeza.